La serata del verdetto inappellabile è arrivata. L'attesa sta per finire. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quelli che fanno il mio lavoro sono molto esigenti con la sua squadra, chiedono molto. Io vado un po' più in là, io di solito chiedo l'impossibile. E vedendo la mia squadra, anche ieri allenarsi, mi sembrava che fosse disponibile a chiedergli qualcosa di più. Se è così, è una cosa che si può fare, è una cosa possibile. Per cui si va attraverso quella strada. Poi ci sono gli eventi della partita, come dicevo prima, che determineranno poi quello che sarà il discorso finale. Carino da parte mia sentir dire questo, ma è meglio rimanere poi su quello che è l'importanza del momento. Sono tutte cose belle a sentirsele dire, a leggere che ti vuole questa o quell'altra squadra, insomma. Quello che per me diventa fondamentale, che veramente può cambiare quella che è la nostra storia, è fare questa impresa qua. Il resto viene dopo. Dunque, missione impossibile sulla mano, anzi alzi la voce chi ci crede, 800 24 00 24, numero verde, Giorgio Drugo, il nostro dottore, Andrea Roccabelli in regia, Federico Bini in redazione. È un giorno di lutto a Brescia per il calcio italiano, è scomparso un presidente che ricordiamo benissimo e con grande affetto, cioè Gino Corioni, che è stato presidente prima del Bologna e poi del Brescia dal 92 al 2014, l'uomo che prese Baggio, che prese Guardiola, che prese Amsic, che prese Luca Toni, tanto per fare alcuni nomi, e soprattutto volto nuoto e uomo di grande sensibilità e disponibilità. Ma parliamo della Roma e della sua impresa impossibile. Secondo me la Roma ha il diritto questa sera di procurarsi una grande notte di festa al Bernabeu. L'unica regola è quella di non farsi ubriacare di gol dal Real Madrid, come alla Roma troppo spesso è capitato, ma forse è il caso di dire era un'altra Roma, molto diversa da quella di Spalletti, però è capitato con influenze pazzesche poi sull'andamento in campionato e sulle ripercussioni pazzesche sullo sviluppo della successiva della stagione. Dall'altra parte c'è un Real Madrid che, insomma, benissimo non sta, né dal punto di vista fisico né come umore. Ciao Filippo Maria Ricci, come stai tu? Buon pomeriggio. Meglio del Real. Sì, sì, il Real è come al solito, sempre sull'orlo di una crisi di nervi, ed è su questo che deve appoggiarsi la Roma. Sì, un bel gol e poi puntare sul Bernabeu. Esatto, che lo stadio avversario potrebbe Però, potrebbe essere un fattore al contrario per il Real Madrid, perché c'è aria di contestazione da quelle parti. Insomma, no, solo tre giorni fa fischiavano Ronaldo, che poi ha fatto 4 gol. Ecco, sì. Questo si unisce tutto quello che hai detto prima, no? Per cui non bisogna prendere tanti gol. Solo un appunto: è vero che era un'altra Roma, ma occhio, anche la Roma di Spalletti ha preso 7 gol in passato, sì. E c'era, contro Cristiano Ronaldo, tra sì. l'altro. No? Che giocava doppio... con una maglietta rossa. Esatto, quindi vabbè, speriamo, ovviamente, questo è tassativo questo, diciamo, questo diktat che hai posto tu. Il Real Madrid, non lo so, dipende. Per esempio, torna Bale, bisogna vedere come sta, perché ultimamente giocava molto bene. Molti rientranti da problemi, anche lo stesso Kroos, no? Sì, Kroos è stanco, adesso non so bene per cosa, però è un giovane tedesco, abbastanza aitante, però ultimamente era un po' stanco. E Modric ha preso un colpo, Mazzello un po' che non gioca, è tornato sabato. E bisogna vedere, però per esempio Ronaldo è in gran forma, Ronaldo ha deciso la partita di Roma, Ronaldo ha fatto 4 gol al Celta, che nel primo tempo però aveva messo in grandissima difficoltà il Real Madrid. Quella è una partita che la Roma, secondo me, deve prendere come esempio, sia positivo che negativo. Certo. Perché, come dici tu, appunto, non bisogna prendere un'imbarcata di gol, è il Celta lì, ne ha presi 7. Però al primo tempo il Real Madrid era in grandissima difficoltà. Io noto comunque che la Roma ha le stesse condizioni emotive che si sono create in una partita che abbiamo visto una settimana fa con a Milano, e cioè Inter-Juventus, più o meno le stesse condizioni, no? Inter che era già eliminata 3-0 a Torino, la Juventus che è arrivata qui portando solo le magliette senza dentro i giocatori, ed è successo quel che è successo. Però quella era una Juventus un po' rimaneggiata, questo è un Real Madrid al completo, manca solo Benzema. Secondo me la Roma deve puntare sulla partita di andata, perché al di là degli episodi, dei colpi da campione, perché voglio dire, il gol di Ronaldo è un gol da campione, e il rigore non visto è un episodio, e poi c'è il gol di Cesè, e la Roma tatticamente Spalletti aveva incartato assolutamente la partita a Zidane, che mi sembra un allenatore, come dicono qua, molto verde, cioè molto acerbo ancora. Spalletti sicuramente superiore. Certo. E tra poco parliamo anche di Zizou, mi sembra abbia un po' dimenticato l'italiano. Adesso fermiamoci un attimo per il traffico, poi torniamo. 800240024 numero verde, poi abbiamo tante cose. Avremo un audio forum, poi vi spiego che cos'è, con Maurizio Crosetti, parleremo del caso Sharapova. Faremo i complimenti a Gianni De Biasi, che ieri si è beccato una panchina d'oro al merito internazionale. Faremo gli auguri all'Olimpia Milano. Insomma, state con noi tutto il tempo fino alla fine, fino alle 15:30. A dopo. Tutti convocati. Tutti convocati. Sta giocando benissimo, sta vincendo 7 partite di fila e quindi quello significa qualcosa. E noi ci dobbiamo fare comunque un'altra partita. Abbiamo vinto quello dell'andata, però tu sai, nel calcio, nel football, no, mai puoi essere. Quindi la dobbiamo fare questa partita. Abbiamo un ambiente fenomenale, tutto quello da fuori, sai, si può dire tante cose, è così. Quello che glielo chiedo. Sì, però dentro noi i giocatori sono tutti bene tra di loro, e quello per me davvero sono contento. E questo era Zizou Zidane in uno slang misto italiano, spagnolo, un po' di francese, cioè, non si ricorda più benissimo l'italiano. Filippo Maria Ricci collegato con noi, ciao Pierluigi Pardo. Ciao, come va? Io ho invitato ad alzare la voce all'800240024 coloro che credono ai miracoli. Io non ci credo, ti dico la verità, però sarà una partita da vedere, io credo, e tu commenterai. Sì, insomma, l'anno scorso lo Schalke sperò l'impresa qui a livello di ottavi di finale dopo aver perso l'andata, i numeri però sono assolutamente non confortanti. Io credo che il vero capolavoro di Spalletti sia quello di essere riuscito con i suoi risultati e con il suo entusiasmo a rendere la Roma una squadra che oggi scende in campo qui con la voglia di andarsi a giocare una partita di pallone bella, magari alla pari, e non con la paura di dover rischiare di peccare altri 6 o altri 7 come nel recente passato. Sì. Questo, Roma che è cresciuta più rispetto alla partita di andata, e credo sarà anche alla fine un bel test per vedere a che punto è il lavoro di Spalletti. Assolutamente, poi va anche detto che nel passato i 7-1 sono arrivati in maniera abbastanza impronosticabile. Quando la Roma perse 7-1 a Manchester con Spalletti in panchina, aveva giocato bene, meglio del Manchester United dall'andata, aveva vinto 2-1, e il 7-1 dell'anno scorso del Bayern è arrivato in un momento di grande fiducia della Roma, no? Quell'inizio molto bello di stagione, e probabilmente in qualche modo sono anche figlio di un eccesso di compianza, di fiducia nei confronti dei propri mezzi. Oggi mi sembra però che non ci siano quei presupposti, così come io ti dico che non sono un sognatore che pensa all'impresa, è praticamente impossibile, però mi sento abbastanza fiducioso per una grande partita, per una buona figura alla Roma e al calcio italiano. Filippo, Zizou è in un momento molto delicato, l'abbiamo sentito parlare prima, vendemmia di gol in Liga, ma ormai una Liga che ha poco senso per i Blancos, obbligato a vincere la Champions League, se vuole restare su quella panchina, insomma, non è in una splendida condizione, già circolano gli avvoltoi che portano sulla coda i nomi di altri allenatori che tu conosci benissimo. Sì, anche se diciamo al fixing qui oscilla diciamo più della panchina del Real Madrid, che cambia continuamente l'umore del presidente, in questi giorni, dopo aver cercato si è guardato intorno e ha visto che non è così semplice trovare un altro, l'ennesimo allenatore per il Real Madrid, Da sacrificare allora sull'altare. Esatto, in questo momento Florentino Perez sta pensando che se non succede niente di grave in Champions potrebbe continuare con Zinedine Zidane. Questa è l'ultima, diciamo, come si può dire, l'ultima annotazione, diciamo, l'umore dice questo in questi giorni. Se stasera ovviamente il Real Madrid non esce, perché a quel punto diciamo sarebbe la catastrofe. E se può arrivare a una semifinale, magari anche uscire in semifinale come fece Mourinho, diciamo con dignità, senza prenderne 6 o 7 dal Bayern di turno o dalla Juventus, magari sarebbe anche meglio, o soprattutto dal Barcellona, allora il prossimo anno Zidane sarebbe ancora allenatore. Si potrebbe archiviare questa stagione semplicemente come una stagione totalmente fallimentare, costato un mucchio di soldi, sarebbe così. Di transizione abbiamo sbagliato Transizioni con tutti quei soldi, a me viene un po' da ridere, però va bene così, va bene così, stagione di transizione. Si interviene sul mercato in maniera pesante, si spendono altre centinaia di milioni se transitare un'altra volta oppure no. Esatto, però al momento Zidane è abbastanza solido, anche perché ti dico, poi le alternative sono, è difficile trovare un altro allenatore, i nomi che sono stati fatti sono tutti validi, ma sono tutti anche difficili o da prendere o da gestire o non convincono per varie ragioni, per cui al momento Zidane è solido, poi appunto sarebbe divertentissimo, sarebbe geniale in questo senso, guardandola qui da Madrid, che la Roma potesse mettere in pericolo invece No, ma lo scenario potrebbe essere questo, Pier. Tra l'altro la pressione è tutta sul Real. Appunto. Questo è ovvio, perché io per esempio seguo insomma l'analisi è chiarissima, cioè il Real si gioca tutto in 5 partite, in campionato è talmente distante dalla vetta, ma anche dalle posizioni, dal quinto posto, no? Quindi, e anche dal quarto, quindi è proprio sicura del posto in Champions League senza se, senza ma. È in Champions però in 5 partite, forse 5, magari meno, e si gioca tutto, quindi è veramente mai come in questa stagione ha preso un filo, poi è una stagione che potrebbe portare a un doppio fallimento, Filippo lo sa meglio di me, da queste parti sono state chieste anche le dimissioni di Florentino Perez, insomma sono tutta una serie di elementi che fanno pensare a quello lì. Ciro Ferrara, ciao May, Ciro, vuoi dire qualcosa a Radio 24? Ecco, è entusiasta, ciao, una faccia di uno che mi aspetta qui la mezz'ora che ha fatto il terzo l'est. Dì una cosa, fai un saluto anche in napoletano. Limbo fam. Ecco, avete capito, limbo fam, abbiamo fame, traduco, perché è il spagnolo stretto. Sì, tra l'altro Ricci dovrebbe arrivare qua, però c'ha i nipotini, che c'ha. Cioè, è vita familiare, sono un family man, adesso poi dopo posso pensare, vengo a trovare per il caffè dopo. Dai, va bene, dato questo appuntamento telefonico in Mondovisione, come si chiama il tipo di Maria non so, ce ne sono vari, però adesso informazioni di servizio dopo non me, allora, in questo momento non so chi c'è, dipende però non posso entrare a fare pago no. Va bene, adesso faccio pago in diretta su Radio 24, aspetta, vabbè, ma tanto non devo aprire la puerta, bueno. Sì, sì, no, non ti fanno andare gratis, anche se dici che parli con la gente. No, ma non è questo l'obiettivo, non è questo l'obiettivo. L'obiettivo è non fare figuracce, visto che questo sta almeno 27 volte. Paolo da Bologna, buongiorno. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buondì, sono Paolo. No, nulla, volevo intervenire, state parlando del Madrid, in realtà volevo parlare per la moviola di ieri. Ho sentito la collina e successivamente mi sono posto delle domande. Oggi me ne pongo due o tre. Secondo me si buttano in un ginepraio con la moviola in campo. Un paio di domande, velocissimo. Quante volte, non so, recentemente ho sentito Cesari la sera dire che per lui era rigore, Casarina la mattina dire che non lo era. In questi dubbi chi decide? E un'altra domanda, le immagini che porteranno alle decisioni, presumo di una giuria, ci saranno, so, tipo nel basket, alcune guardi, persone non, a un tavolo, non è ancora che dato sapere. Non è ancora dato sapere. Nel dubbio chi decide? L'arbitro perché dovrebbe dovere, si prestano delle per entrambe le domande dopo, la risposta dovrebbe essere l'arbitro. Quante volte sentiamo dire dall'allenatore dopo partita, ah, prima dell'azione del gol o del rigore, non so, è stato propiziato da un fallo non fischiato. In quei casi cosa si fa? Si torna indietro? E se sì, di quando? Collina è stato comunque molto chiaro. Non è che, guardi Paolo, la Collina è stato molto chiaro su questo. Non è che dovesse funzionare quell'esperimento, sarebbe la soluzione di qualunque tipo di dubbio. Okay, quindi... però Carlo, parliamo sempre di game changer, come ha detto lui, cioè parliamo di episodi che possono decidere o cambiare una partita, non parliamo delle rimesse laterali, cioè non è che adesso su qualsiasi episodio c'è la... No, è chiaro, altrimenti le partite durano tre giorni. No, appunto. Perché c'è questo concetto, se no, importantissimo, della fluidità del gioco, cioè il calcio comunque vive dei 90 minuti di tempo continuo, senza il tempo effettivo, quindi da questo punto di vista non è uno sport... È uno sport continuo, non è uno sport che si ferma come il football americano o come la pallacanestro. Quindi da questo punto di vista non credo che non ci siano grandi dubbi. A me sembra tutto positivo. Mi sembra tutto positivo, mi sembra che vada nella direzione di una trasparenza che appunto rientra nello stesso campo filosofico della trasparenza che viene richiesta alla FIFA in questi tempi abbastanza complicati. Vedremo se verrà imposta mano in qualche modo al dossier del Qatar. Dubito, perché credo che gli interessi siano ormai talmente forti, talmente grandi che lì non si possa intervenire. Penso che questa era la riforma più semplice che si potesse fare, più popolare, per guadagnare subito un po' di consenso da parte del partito. Come abbiamo detto, Pierluigi ti saluto, ma non far aspettare, sì, non far aspettarci lo Ferrara, che no, mi preoccupo. E poi questo tiene fame, poi è cattivo, questo è il difensore, mi entra sulla caviglia per tutto. Ciao, ti saluto, se vuoi sentiamo dopo, ciao. Filippo, eccomi. Posso chiederti ancora una cosa? Ti piacerebbe, sì, vedere, ti piacerebbe vedere Totti in campo stasera anche sì, un pochino, vediamo. Dai. Io sono, sì, secondo me ne avevamo parlato anche all'andata, doveva entrare prima, no? Sì, ma lì a salutare il Bernabeu, dai. Salutare il Bernabeu. Non passerella tre minuti, ma non so, dieci minuti, vediamo come va la partita, quarto d'ora. Sarebbe divertente, sul 2-0 per la Roma, per tirare il rigore poi alla fine. Come? Con un cucchiaio, eliminare Real Madrid con un cucchiaio al Bernabeu e poi a quel punto dovrebbe dire smetto, in zona mista. Esatto, sarebbe perfetto, sarebbe perfetto, bello, eh? Abbiamo già scritto una sceneggiatura meravigliosa. Siamo molto teatrali, anche un po' troppo. Vabbè, dai. Però no, mi piacerebbe, dico, anche all'andata, insomma, gli avrei fatto giocare qualcosa in più, anche, cioè, per vedere l'effetto che fa sia a lui che alla Roma, che in generale, perché poi magari giochi 20 minuti al Bernabeu e non prendi una palla e magari ti rendi anche conto che questo è il calcio è andato avanti insieme alla tua vita, che magari è il momento di smettere. Anche perché può essere un test anche per lui, no? Ma sì, può essere un test anche per lui, anche perché è molto triste vedere, ieri sera mi è capitato di vedere Kobe Bryant, insomma, sono molto felice che si ritiri, posso dirti, anche se è stato un enorme giocatore. Ma sì, a un certo punto bisogna ritirarsi. Ma sì, le storie finiscono, vogliamo ricordare il giocatore che era, ci sono i DVD, c'è la tecnologia, c'è il computer, internet, eccetera, eccetera, basta quello. Ciao Filippo, grazie, buona partita. Ciao a voi, ciao. Allora, i gufi li invita a telefonare solo alla vigilia delle partite della Juve. No, ma ci mancherebbe. I gufi sono invitatissimi. Anche loro, 800 24 00 24, è il numero verde. Potete anche fare il verso del gufo, eh. Qualcuno ogni tanto lo fa. Sentiamo dopo la borsa. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Convocati. Finalmente Maurizio Crosetti dai piani alti di Repubblica. Moltissimo. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. Ci sono le vertigini qua su. Vertigini totali, eh? Vertiginissime. Volevo fare ieri le pagelle del lunedì e invece mi sono inventato un'altra cosa. Mi sono inventato l'audio forum oggi. Oggi facciamo l'audio forum. O audio storia, non lo so, poi decido anche il titolo. No, io ti faccio sentire degli spunti sonori, ovviamente di stretta attualità, e tu mi fai sentire invece il tuo pensiero. Il primo spunto sonoro che ti do è Allegri, che ieri ha vinto la panchina d'oro, e il Bayern di Monaco. Che non è impossibile, sono d'accordo, però il Bayern è sempre una delle favorite della Champions e soprattutto non è detto perché non ha vinto le ultime partite, non è in una buona condizione, ha giocato delle ottime gare creando molto e non facendo gol. Per noi la Champions non deve essere un'ossessione, deve rimanere un sogno e soprattutto cercare di fare un'impresa che non è semplice a Monaco. Anche l'anno scorso non era ossessione, era sogno, ci vogliono gambe e cervello per scavalcare la gigantesca montagna bavarese su cui abita il Monaco Guardiola. Beh sì, dice quello che deve dire, che diceva anche l'anno scorso prima di Juve-Real, anche se l'andata di Juve-Real si era messa certamente meglio rispetto all'andata di Juve-Bayern quest'anno, che però poteva anche mettersi in maniera terrificante senza quei due gol della Juve nel secondo tempo, per cui la Juve se la va a giocare, come si dice in questi casi. Direi che il mio prolisso commento sonoro al commento sonoro di Allegri è giusto così. Ma ha problemi di condizioni in questo momento la Juventus? Ti dà qualche segnale di, così, non dico di cedimento, ma di affaticamento? Ma aveva rallentato un po' qualche settimana fa, adesso ha ripreso il suo passo. Sì, certo, non è scintillante, è che essere come è in Italia le basta sempre. Assolutamente. Questo sì. In Europa non sempre, in Europa non le basta alle volte nemmeno contro le super squadre, perché quest'anno comunque la Juve, la Champions l'ha compromessa contro il Borussia Mönchengladbach, contro il Siviglia, non certo contro il Bayern all'andata, che è una squadra pazzesca. Sì. Allora, però. Allora, secondo elemento sonoro, chi per il dopo Conti nazionale il favorito è questo signore? Per me adesso veramente è importante portare avanti quello che è un discorso che riguarda la mia società, il Bologna, nella quale mi trovo non bene, benissimo, e quindi questo per me è estremamente gratificante. Poi tutto il resto passerà attraverso il tempo necessario, quindi si valuteranno tutte le possibili e immaginabili cose che accadranno, ma per il momento c'è solo questo di vero e di reale, e cioè il Bologna, con il quale, ripeto, sto non bene, benissimo. Donadoni, come lo vedresti un Donadoni bis? Donadoni, ma guarda, come quando mi mettono nel piatto le costine bollite con l'olio e il limone, poi fanno bene, le mangi, sono un piatto più che mai dignitoso, raccontano la tradizione contadina della nostra bella Italia, però poi mi fanno un po' così, venire le lacrime alle ginocchia, non mi ha mai elettrizzato. Lo stimo, persona seria, un allenatore sicuramente capace, però diciamo che non è di quelli giusto, che mi fanno sangue, non mi fa sangue. Non ti fa sangue? No. In fondo nemmeno mai, anche se lo ritengo bravissimo. Poi io sui bis ho sempre tutte le mie perplessità del caso. Non solo nel calcio, ma anche in molti altri aspetti della vita, mio caro. Invece questa mattina c'erano i tam tam dei social network che dicevano Mihajlovic via dal Milan di sicuro. La prossima stagione è certo, non ci sono dubbi, e al suo posto arriverà. Io penso di, e sono una persona molto concreta nelle cose, anche in quello che voglio dei miei ragazzi, per quello le chiacchiere le lascio agli altri, mi interessano i fatti, perché in questo momento per me c'è solo il Sassuolo, non ci sono altre considerazioni da fare. Ti fa sangue Di Francesco? Sì, se non penso a suo figlio che saluta la curva facendo saluto romano, sì, però è giusto che le cose dei figli non ricadano sui padri. No, scherzo. Come diceva qualcuno. Mi fa sangue no, ma credo abbia lavorato benissimo in questi anni. È sicuramente un allenatore a cui prima o poi bisognerà affidare la grande occasione. Prima che accada quello che è accaduto al povero Sarri, a cui l'hanno affidata giustamente, io credo però ancora un po' andavamo tutti in pensione, no? Ecco, Di Francesco è un po' più giovane, è giusto che abbia la sua occasione, probabilmente l'avrà, e che credo sia un falso problema continuare a chiedersi chi può essere l'allenatore del Milan giusto per ricostruirlo, per farlo tornare una cosa dignitosa. Perché non sai chi è il Milan. Dignitosa. Non sai chi è il Milan, credo che i giocatori siano stati assemblati male, anche quest'anno anno in cui l'allenatore c'è. Dopodiché Mihajlovic, con tutti i suoi limiti, è un allenatore, è un uomo di polso, un uomo che conosce il calcio, sa stare al mondo, fa anche la giusta opposizione a chi vorrebbe sempre decidere al posto suo. Non mi pare male come allenatore, è tutto diverso rispetto a quelle paste frolle che hanno provato prima, e cioè Seedorf e Inzaghi, no? Ma non basta ancora, perché non è il problema del Milan, non è l'allenatore. Mi sa che il problema del Milan è il Milan ormai. È il Milan stesso, ma non c'è dubbio, credo che l'abbiano capito un po' tutti. Intanto Mihajlovic stamattina si è difeso con lo spadone. Le voci di un mio addio sono prive di fondamento, smettete di rompermi le scatole, ho sempre mantenuto due cose nella vita, le palle e la parola, quindi come al solito va su questi su questo gergo da guerra, da guerriglia. Però dice al Milan rimango perché ho il contratto e stiamo lavorando per il futuro, vediamo. Intanto... Che dici? Che deve dire? Anche lui si torna sempre alla rubrica che andrebbe rivalutata nel giornalismo. Sì, no? Sì. Un giorno lo facciamo, le ultime parole famose, che deve dire? C'è un contratto, anche se lo cacciano via ci tiene i suoi soldini, secondo me, ma così a occhio. Allora, ieri è intervenuto Pierluigi Collina su un aspetto, su un argomento che conosci benissimo, è intervenuto qui da noi e io ho premesso, guardi Collina, sto nella riserva indiana. Quella senza la moviola, e lui mi ha detto: ma riserva indiana siete pochi, quindi come dire, destinati a un'estinzione naturale. Comunque ti faccio sentire Collina. L'obiettivo non è quello di valutare tutti gli episodi, l'obiettivo è prendere in esame i match changing errors, cioè situazioni che veramente possono andare a cambiare il risultato della partita. Ovviamente, se le immagini saranno in grado di dare una risposta, saranno probanti, se non lo saranno verrà comunque rispettata la decisione dell'arbitro. Allora Maurizio? No, premesso che the book is on the table, e questo sempre, e my favorite color is blue, anche, mi piace sempre tanto rivalutare la rubrica parla come mangi, dopo quella che deve dire. Quindi diciamo che si poteva dire la moviola deve essere utilizzata in quei casi in cui può dire con certezza se una cosa è successa oppure no. L'italiano lo dice in maniera un po' più lunga dell'inglese, ma si capisce di più. Sì. E cioè io sono con te dentro la riserva, salvo per i casi del gol fantasma, allora lì sì. No, beh, gol fantasma non si tocca, guai a chi me lo tocca, guai a chi me lo tocca gol fantasma. La tecnologia ci aiuta e va benissimo in un caso di certezza assoluta. Per tutto il resto a me piace tanto che il calcio non abbia la certezza assoluta. Dirò di più, mi piace del calcio anche la possibilità dell'errore, anche dell'errore clamoroso, purché non sia un errore malato. Guarda, l'imperfezione... Quindi se vai in campo accetti l'errore. L'imperfezione è meravigliosa, secondo me. È la 18ª regola del gioco del calcio. Quindi io non voglio in campo, non voglio i dibattiti, non voglio il talk show, non voglio che si cominci a fermare il gioco per guardare i marchingegni. Non mi piace manco leggere il giornale, cioè Martingegni, pensa un po' che pensa in che riserva indiana sto, dopodiché, come disse. Sì, ma siamo destinati all'estinzione, ecco. Dice Collina. Siamo pochi. E io rispondo anche che, sempre con il massimo della malizia, che la nuova FIFA aveva bisogno di una botta di popolarità dopo tutti i casini che hanno fatto, l'FBI, eccetera, eccetera. Sì, aveva bisogno di Papa Francesco, sì. Dopo Blatter, no, dopo Blatter, Francesco aveva bisogno di qualcuno che dicesse sì a qualcosa, ma è giusto, questo io lo capisco. Dal punto di vista dell'immagine, l'amico Gianni Infantino ha fatto anche bene ad aprire. E il fatto è che bisogna essere sempre consapevoli che si sta parlando del calcio, che ha specificità sue, che non è la linea laterale del tennis, non è il tempo reale del basket. È un'altra cosa, e secondo me alla fine, visto che abbiamo cominciato a dire quello che ci faceva sangue, no? A me fa sangue anche sapere che qualcuno può sbagliare, lo ripeto. Poi certo che se questo errore viene sempre contro le piccole o sempre a favore di qualcuno e ti fa venire il sospetto che sotto ci sia una scheda telefonica, allora no. Però se l'errore è umanamente connesso all'apparato come dire, visivo, sì, di un uomo, allora io mi tengo questo errore, l'uomo, l'apparato visivo e la possibilità del limite, che aumenta anche la bellezza, secondo me, del calcio. Amen, grazie Maurizio. Grazie a voi, baci. Ciao, ciao Maurizio Crosetti. Ci fermiamo per il traffico, torniamo con Teddy e Fabrizio. Tutti convocati. tutti convocati. C'è un ascoltatore che mi scrive: se non vi piace vivere nel 2016, tornate a giocare con il pallone da 3 kg, non a caso avete 50 anni tutti e due, si sa che più si va avanti più si fa fatica a cambiare. No, ma non è una questione di età, cioè, è vero che l'età avanza, ma io non sono per niente nostalgico del passato. A me lo sport piace molto di più adesso di quanto mi piacesse 10, 15 o 20 anni fa. È normale evoluzione, adesso si va in moto, allora si andava in motorino, quindi non sono per niente ancorato al passato, alle sue regole, eccetera. L'unica cosa è che la moviola in campo a me non piace. E non è vero che gli unici contrari alla moviola in campo sono gli juventini, chissà come mai, perché io non sono juventino, lo giuro. Teddy, anche se non ci credo, non me ne importa niente, però... Allora sicuro, saremo sicuro, nella riserva saremo io con gli buongiorno. Juventini. Va bene, buongiorno. Auguri a tutte le donne intanto. Auguri, mi associo. Sono romantico, mi dispiace, prima ho sentito che lei è meglio pensare avanti che indietro, insomma. Il calcio è bello com'è, com'era sì. E com'è, sperando di non cambiarlo totalmente. No, io penso infatti una cosa. Nessuno vuole cambiare, semplicemente a me piace imperfetto, mi piace così com'è, come una... meravigliosa donna troppo perfetta che non ti fa sangue, come avrebbe detto Crosetti, ecco. No, buttiamola su questo. Secondo me allora ho visto anche io, vedo quando posso per il lavoro, vedo Tiki Taka, no? Signor Mughini, sul fallo, un'ipotesi sul fallo di Ronaldo lì di Giuliano, che era Giuliano mi sembra, no? Della sì. Juve a San Siro. Signor Mughini a Tiki Taka ha fatto capire giustamente che era un po' eclatante chiamare anche un rigore, mentre tre quarti d'Italia è rigore. In quel caso lì cosa succede poi? Cioè, cosa succede? Sto rigore lo diamo o non lo diamo? Quindi facciamo solo il fuorigioco, quindi gol, non gol. E giochiamo a schedina. No, guardi, non lo so. Io ripeto quello che ho detto ieri, sarei per la prescrizione degli episodi dopo tre giorni, neanche dopo tre mesi o tre anni, mentre gli episodi Ronaldo e Giuliano ce lo portiamo dietro per tutta la vita. Non lo so cosa sarebbe successo. Vogliamo riscrivere la storia del calcio. Senta, però faccia i complimenti. Teddy, c'è ancora? No, sì, ci sono. Ecco, allora, prima di salutarla, faccio i complimenti a Gianni De Biasi, commissario tecnico della Romania, che ieri ha vinto una... Guardi, Gianni De Biasi viene al mio negozio a fare la spesa, sempre, ogni settimana viene al mio negozio a fare la spesa, è una persona eccellente, proprio educatissima e brava, quindi lo vedo spesso, insomma, qui a Conegliano Veneto. Carrambata, ciao Gianni! Ciao Carlo, come tutto stai? Bene. Volevamo solo farti i complimenti, perché insomma, portare a casa la panchina d'oro per meriti internazionali ieri, abbiamo fatto tutti un bel applauso per te. Guarda, io sono contento innanzitutto perché potrebbe essere veramente una via perché il calcio italiano si affermi anche fuori dai confini nazionali. Lo sta facendo e io faccio un grandissimo tifo per Claudio Ranieri nella Premier League. Lo stesso farò nella prossima stagione, come ho fatto quando ero in Spagna, per Ancelotti. E lo stesso quando i nostri allenatori vanno all'estero, lo stesso Lippi quando è stato in Cina, è molto importante perché diamo un peso diverso a quello che è il fattore allenatore, che spesso e volentieri qui da noi è sottovalutato. Ma chiaro, ma scusami, viviamo la stagione, si dice, di crisi delle coppe, questo lo diciamo da anni, di crisi del nostro calcio. Al contrario, i nostri allenatori volano altissimi per tutta l'Europa, tu con l'Albania e Ranieri che hai citato e Conte che andrà al Chelsea e Allegri che dicono sia cercato dal Real Madrid, tutti vogliono in questo momento tecnici italiani, diciamo che è la grande vittoria del calcio italiano questa? Buono, io credo che sia sicuramente solo che faccia solo bene a tutto il movimento, anche perché noi dobbiamo cercare di esportare e di scambiare poi anche le culture, perché è solo un arricchimento per tutti il fatto di gestire situazioni diverse in ambienti diversi, credo che possa soltanto aiutare il processo di crescita dell'allenatore. Gianni, diciamo di insieme a un amico, Gino Corioni, tu sei stato suo allenatore per 2 anni. L'ho visto esattamente 10 giorni fa, sono andato a trovarlo, ho parlato a lungo con lui, era molto carico, molto suo anche di morale, nonostante la malattia lo debilitasse, però credo che sia stato veramente un innamorato del calcio in maniera globale ed è uno che per il calcio ha dato tantissimo. A Brescia nessuno avrebbe mai ipotizzato che Guardiola, che Baggio giocatori a livello internazionale potessero arrivare a quelle latitudini. Lui ci è riuscito perché aveva veramente una qualità, riuscire a convincere le persone perché aveva una bontà d'animo, una persona generosa, e io ricordo tanto, perché per me è stato un padre, anche se mi ha esonerato, ma credo non l'abbia fatto a fin di bene. Grazie Gianni, come sempre complimenti di nuovo. Grazie a voi, presto. È stato un piacere. Ciao Gianni, ciao buon lavoro. Ciao a tutti. Grazie Gianni De Biasi. Allora, adesso ci fermiamo per il giornale radio. Poi aspettiamo ovviamente altri ascoltatori 800 24 00 24, ma soprattutto torneremo parlando del pasticciaccio della Sharapova. Non so chi di voi crede a Biancaneve, anche se è bellissima di nero vestita e con gli occhi un po' lucidi. Vi aspetto qui, 800 24 00 24 per chiamarci, 349 238 6666 per messaggi SMS e WhatsApp. A dopo. Finisce qua, senza recupero, primo tempo, gran spettacolo. Tutti convocati. Giuseppe Cruciani. Cruciani, datti una calmata, dai. David Parenzo. Certo che di cazzate Parenzo ne dice tante. La Zanzara. E che cos'è? Che è un bel ambiente. Ambiente di maiali. Tutti i giorni alle 18.30. Solo su Radio 24. Questo non credo. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Index, protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Convocati. I wanted to let you know that a few days ago I received a letter from the ITF that I had failed a drug test at the Australian Open. I did fail the test and I take full responsibility for it. For the past 10 years, I have been given a medicine called Mildronat by my doctor. By my family doctor, and a few days ago after I received the ITF letter, I found out that it also has another name of meldonium, which I did not know. C'è chi mi scrive, non so quanto ironico, tutti crediamo alla ragazza immacolata candida e campionessa immensa a non sparare sulla Croce Rossa Vigliacco. Nessuno spara sulla Croce Rossa, semplicemente io non riesco a credere a Biancaneve, nemmeno quando è bionda, bellissima, vestita di nero e con gli occhi leggermente lucidi. Fausto Narducci oggi su questo caso della Sharapova scrive l'analisi sulla Gazzetta dello Sport, che condivido dalla prima riga all'ultima, comprese alcune domande che sono cruciali e che penso siano rimbalzate nella mente di molti. Allora, il Meldonium è un farmaco antischemico prodotto in Lettonia ed è una delle caramelle più popolari degli sportivi russi. Ciao Fausto. Ciao, buongiorno. Sembra che ormai il campo sia stato liberato dalla questione serve per il diabete. È un farmaco antischemico e per il diabete, è stato spiegato da molti, non serve a nulla. Quindi Maria Sharapova, da questo punto di vista, credo che non sia difendibile. Punto primo. Beh, insomma, io penso che questi sportivi siano in fondo dei grandi attori alla fine, sì. Perché mi torna in mente quello che fece Schwarzer a Londra ed è simile a quello che ha fatto la Sharapova ieri, no? Raccontano la loro verità, si commuovono, noi abbassiamo la guardia e possiamo anche pensare che raccontino la verità, però basta analizzare un po' le cose con un minimo di lucidità e è facilmente intuibile che non è possibile che tutti gli sportivi russi abbiano la stessa malattia, tutti prendono la stessa medicina dall'inizio dell'anno così, ed evidentemente da anni e anni usavano questo Meldonium, che finalmente è stato indicato tra le sostanze vietate, ma non perché noi conosciamo gli effetti, questa è una cosa importante, perché avevano riscontrato a livello di laboratori WADA un uso intensivo e massiccio del Meldonium da parte di tutti gli atleti dell'ex Unione Sovietica. Sì. Quindi per via induttiva hanno dedotto che a qualcosa evidentemente servirà se tutti lo prendono e tutti hanno la stessa malattia. Beh, fluidifica il sangue, aumenta la resistenza, siamo sempre alle solite, gli effetti sono grosso modo questi. Tra l'altro pizzicata un'altra russa che Evidentemente andava dallo stesso dottore della Sharapova, la pattinatrice Bobrova, sempre per il Meldonium. E oggi il ministro russo, il ministro dello sport russo, ha detto: noi stiamo dalla parte di Maria, però state attenti perché altri casi di positività al Meldonium usciranno, quindi lo sanno perfettamente. Ma sì, oggi ce ne sono un altro paio, ce n'è uno dello short track. È chiaro che più andremo avanti, più ne troveremo di sportivi. Però, ripeto, ragioniamo un attimo. Vi sembra possibile che tutti debbano prendere questo Meldonium, che tutti gli sportivi, che poi dovrebbero essere in salute, hanno bisogno di medicine, della stessa medicina? Insomma, giustamente, come dicevi, non crediamo a Biancaneve e alle favole. No, da un po'. E poi, l'altra cosa, è stato inserito questo farmaco a gennaio nella lista dei farmaci proibiti. E la Sharapova ha detto: non ho letto la letterina, mi sono dimenticata. Ma una che guadagna 30 milioni l'anno non avrà uno staff di medici collaboratori che le dicono. Ma più che lei, infatti a questo punto, più che lei è possibile che nessuno dello staff, nessun medico, nessun dirigente, nessun allenatore l'abbia informata? Non è credibile, onestamente. Nel mondo delle favole sì, ma come abbiamo detto ne siamo fuori. E l'altro punto che tu sottolinei, altra domanda: perché una tennista fa uso di questi prodotti? Ecco, non qui, è uno sport devo di dire resistenza, che è un po' più complicato, in effetti. La risposta è un po' più complicata, ma soprattutto perché noi non conosciamo bene l'effetto del Meldonium. Diciamo che le possibilità sono due, fondamentalmente: o è un coprente, perché il Meldonium è anche un coprente, quindi sì, lei fa uso di anabolizzanti, che è il doping dei tennisti, e lo copriva con questo. O appunto l'uso di una sostanza come il Meldonium favorisce gli allenamenti, è utilissimo nella resistenza per gli allenamenti, e questa è una chiave che spesso sfugge, perché ci sono sostanze che non servono per la prestazione in sé, certo, ma per la preparazione che porta all'evento. E qui tutti gli sportivi sono uguali, perché tutti gli sportivi di qualunque sport hanno bisogno di vengono aiutati da sostanze fluidificanti. I dottori spagnoli sono più bravi, non si fanno beccare, scrive un ascoltatore. Ma sì, qualcuno l'hanno beccato anche da quelle parti lì. Comunque, un altro punto è, sapendo che, perché lo sapeva, che questo farmaco era stato inserito nella lista dei farmaci proibiti, andava incontro agli Australian Open a una quasi certa positività. Sì, sì, in effetti questo giocherebbe a suo favore, perché se lei lo sapeva, perché l'ha preso? Diciamo che non hanno fatto in tempo un po' tutti i russi a prendere provvedimenti con se stessi e quindi a fermarsi, perché è chiaro che da gennaio, dal momento in cui è stato annunciato, che è il 20, fine dicembre in realtà, che è arrivata la comunicazione, diciamo che tutta la massa degli sportivi russi, dobbiamo pensare che tutti, assolutamente tutti, ne facessero uso, non hanno fatto in tempo a fermarsi, o in qualche modo la sostanza è rimasta in circolo, non lo so. Sì, quello sì. Fausto, un'ultima cosa: è cominciata già la fuga degli sponsor, le notizie di oggi, la Nike si allontana dalla Sharapova in attesa di chiarimenti, lo stesso per la marca di orologi, la Tag Heuer, che era uno dei suoi sponsor, e questa è una conseguenza naturale, giusta e corretta, perché forse è il prezzo economico da pagare se fai di queste cose. Noi stiamo parlando della tennista più ricca del mondo, forse dell'icona sportiva in assoluto dello sport mondiale, la più ammirata, la più bella, la più popolare, la più famosa, ma non la più forte, perché in realtà poi se analizziamo i risultati non è la più forte, c'è la Williams e ce ne sono anche altre davanti. Però è chiaro che il danno, come quello di Tiger Woods a suo tempo per altre ragioni, e quella di altri sportivi che sono in corso nelle reti, nei controlli antidoping, si pagano, certo. Grazie Fausto, buon lavoro. Anche grazie, a te, a presto. Buon lavoro. Ciao Fausto Narducci. 800 24 0024, il numero verde. Gianfranco, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Dunque, io ho una storia tennistica per certi versi, perché sono maestro di tennis e perciò diciamo da tanto tempo che gioco e pratico questo comunque bellissimo sport. E quindi ma crede alla Sharapova? Ma non credo alla Sharapova, perché sono convintissimo, e questa ormai è una mia radicata convinzione, che da tantissimi anni si fa un uso quasi generalizzato di qualche sostanza che sia proibita. E tutto sommato ci sono stati già altri chiari segni in altri giocatori, voglio dire, adesso andiamo a parlare nemmeno di quelli fortissimi che dopo periodi di forzato riposo hanno la metà della loro struttura fisica, eccetera, eccetera. C'è anche da dire che nel tennis i controlli antidoping non sono così selettivi, così approfonditi come accade in altri sport, e anche questo per la precisione. Certamente sì, ma voglio dire, questo sicuramente è un problema che diciamo già da tantissimi anni, ma è stato sempre così, secondo me, anche voglio dire 40, 40 50 anni fa comunque si usavano delle sostanze magari non eccessivamente dopanti, perché comunque si vuole anche una organizzazione mentale quando uno gioca a tennis, che perciò non può essere offuscata. Sì, diciamo, è uno sport dove c'è soltanto vigoria fisica e basta, ma sicuramente mantenere un livello così elevato di rendimento in campo per un torneo che dura magari una settimana o anche due, ma che sono tutti incontri stressantissimi con grosse sollecitazioni, è ovvio che questo, se non ci sono degli aiutini, non è possibile. Quindi arrendetevi. Sì, ecco, io direi che questo qui è il problema. Bisogna magari con controlli serissimi oppure cercare di gestire la cosa meglio. Ma non ci sono dubbi che tutti i giocatori, a parte quelli di fenomeni, ma anche perché voglio dire, giocare il rovescio a due mani, e vedete che ci sono moltissimi giocatori, adesso c'è un ritorno un pochino al rovescio a una mano, voglio dire, parlando sotto aspetto tecnico, sì, che comporta uno stress fisico decisamente inferiore. Voglio dire, Federer continua a giocare in maniera magica perché gioca al rovescio a una mano, ma il tennista che deve andare lì, che perciò fa il doppio della distanza, e che chiaramente giocando al rovescio a due mani deve andare molto più vicino alla palla, sì, e lo stress fisico è violentissimo, non può sostenere un torneo intero giocando a quei livelli, a quelle velocità. È ovvio che ci sono degli aiutini, perciò voglio dire, secondo me questa è una scoperta un pochino dell'acqua calda. Vabbè, però scopriamo l'acqua calda nel sangue di stelle come la Sharapova, e poi ne riparliamo, perché o ci arrendiamo e diciamo vabbè, tanto fanno tutti così, che è una affermazione ricorrente e non è possibile fare altrimenti, oppure magari anche nel tennis, che ogni tanto salti fuori qualcuno positivo a roba di questo tipo, agli anabolizzanti, magari anche di campionissimi, insomma, potrebbe contribuire a fare pulizia. Grazie Gianfranco. Giulio, buongiorno. Buongiorno Carlo, ciao, prima ciao. Volta che intervengo sul tennis, anche se l'utente precedente ha detto molte delle cose che condivido. Non credo alla Sharapova, sono d'accordo con te che è una straordinaria attrice. Mi viene in mente che anni fa, e se ne parlava molto, anche firme importanti l'avevano scritto, parlavano di questi stop più o meno misteriosi, più o meno lunghi, di grandi campionesse come le Williams, sì. Magari si fermavano un mese per un infortunio al polso, cose sì, assurde, sì. Gente di 22 anni che ha il polso fratturato, cioè tu guardami Del Potro adesso che gioca un mese sì e 11 no, e dall'età di 20 anni che ha il polso rotto, non c'è. Onestamente non lo so. Beh, questo può essere conseguenza dello stress estremo cui il fisico è sottoposto. Però, ripeto, nel tennis non ci sono mai stati dei controlli antidoping così approfonditi come accade in altri sport, dove c'è. Ma sappiamo queste storie, no? Cioè, ci sono delle tabelle, ti devi presentare, se manchi all'appuntamento e salti appuntamenti, sono storie che leggiamo tutti i giorni. Ti squalificano, eccetera. Qui si arriva al punto di pizzicare direttamente la tennista, l'icona numero uno del tennis mondiale, e a questo punto, secondo me, le scuse che ha prodotto mi sembrano onestamente poco credibili, ragazzi. Non giriamoci intorno. L'ammiriamo tutti, è una donna meravigliosa, una grande tennista, un'icona, una signorina che guadagna un mucchio di soldi, ma il fatto che non avessero letto il regolamento, il nuovo prontuario antidoping, vabbè, non, sinceramente non ci può chiedere nessuno, perché l'anello al naso non ce l'abbiamo. Voglio farvi sentire questo regalo che è un po' per me, perché poi vi spiego perché, ma soprattutto per l'Olimpia Milano, i suoi 80 anni compiuti ufficialmente in realtà domenica, noi ne parliamo oggi. Mancano adesso 17 secondi, 16. Pallone per Boselli, tiro dalla disperazione, rimbalzo di Magnifico, errore del Villi, ecco un pallone, Silvester, stoppata, sì, ancora la Scavolini, uno, è finita la partita, il Villi è campione d'Italia. troppo pesantemente e è ancora una situazione che può diventare drammatica. 4, 2 secondi, prende la palla, la prende, ha vinto la Coppa dei Campioni. Mancano 5 secondi, Dino Meneghin, 13 finali di Coppa dei Campioni, è la settima volta che quest'uomo vince la Coppa, 5 secondi soltanto, Roberto Premier in lunetta, un tiro libero, poi la palla è ancora per la Tresser, 90 a 84 sul Maccabi di Tel Aviv, la Tresser di Milano ha vinto la Coppa dei Campioni di pallacanestro qui a Gand. Secondi Alessandro Gentile per la schiacciata del più 10 Milano, 74 a 64, il forum fa festa, 4, 3, 2, 1, 0, l'attesa è finita, dopo 18 anni la stella dell'Olimpia torna a brillare. Salvo nell'ultimo caso, in tutti quelli che avete sentito prima, che sono solo una parte, Vittorio Gallinari c'era. Ciao Vittorio. Ciao, ciao Carlo, ciao, buongiorno Carlo, a tutti. Come stai? Bene, bene, dai. Ancora emozionato per i festeggiamenti degli 80 anni e adesso risentire queste telecronache mi fa venire la pelle d'oca. E tu pensa che io sto parlando con uno di cui avevo il poster in camera. Perché questo l'ho detto molte volte, l'ho detto molte volte, non è un segreto. Da ragazzino io non avevo un posto in una squadra di calcio, ma avevo quello del Billy dell'82, che vinse lo scudetto che abbiamo sentito prima, commentato da Aldo Giordani con la Scavolini e quell'ultimo tiro dell'ex Sylvester stoppato da John Gianelli. Vittorio, certe volte ci pensi, io ho fatto parte di una leggenda di questo sport, cioè di una leggenda della pallacanestro. Ti capita di pensarci ancora? So che sei un freddo tu, No, mi capita spesso, soprattutto quando specialmente vado alle partite a Milano e incontro i vecchi tifosi, me lo ricordano sempre e provo sempre una grande emozione, perché io sono convinto che le emozioni che si provano in campo sportivo è ben difficile trovarle in altri settori, perché vincere ti dà un'emozione particolare, un'adrenalina particolare. E ti dicevo prima, riascoltare solo 10 secondi delle telecronache fa tornare indietro a quelle emozioni che hai provato. Senti, quella squadra, quel gruppo, cosa ti ha lasciato poi nella vita? Se ti ha lasciato qualcosa? Beh, a me ha lasciato tantissimo, perché io sono arrivato all'Olimpia che avevo 15 anni e mezzo e ci sono rimasto fino a 29 anni. Per cui ho passato la mia adolescenza, la mia maturità, lì ho fatto tutte le mie esperienze di vita, mi sono laureato e in quel gruppo con cui sono stato 9 anni ha cementato non solo quello che può essere il risultato sportivo, ma anche il mio carattere e la mia persona proprio. Vale anche in parte per Danilo? Vale in parte per Danilo, perché Danilo ha vissuto marginalmente mentre io giocavo e poi in prima persona 2 anni pieni a Milano, quando c'è stato il lockout nell'NBA è tornato ancora qua a giocare 2 o 3 mesi, per cui il suo cuore è lì, è a Milano, ha tatuato Fiero il Guerriero sul suo corpo, per cui più di così credo che sia impossibile. Sì, invece quella squadra ha insegnato come 10 giocatori possono diventare un blocco unico, che poi è il segreto di Pulcinella, ma difficilissimo da raggiungere, di tutte le squadre che fanno epoca, no? Quella Milano, i Chicago Bulls, i Lakers, i Boston Celtics erano qualcosa di più di un gruppo di grandissimi giocatori. Sì, e poi soprattutto importante creare una mentalità. Noi abbiamo iniziato nel 79 con un gruppo, la famosa banda Bassotti con Peterson, sì. Tutti si davano per spacciati e siamo arrivati in finale con Bologna. Abbiamo perso per i primi 2 anni, primo anno in finale, secondo anno in semifinale. E dalle sconfitte si riesce poi a creare quel gruppo e quell'identità che ci ha portato poi a vincere da lì in poi 4 scudetti, per quanto mi riguarda, una Coppa dei Campioni, una Coppa Coras, quindi abbiamo creato quel gruppo monolitico che poi ogni anno con un inserimento eventualmente di un giocatore diverso, di un nuovo americano, che però inserito in un gruppo solido entrava a far parte proprio dello spirito Olimpia. Veniva cooptato allo spirito Olimpia. Esatto. Senti, invece parli due cose sui giorni nostri. Come sta Danilo innanzitutto? Beh, Danilo pian piano sta recuperando, purtroppo il discorso della caviglia è un discorso che si è rivelato un po' più difficile rispetto a quello che si pensava all'inizio, nel senso che due legamenti si sono rotti, il terzo si è lesionato, per cui il recupero sarà un po' più lungo, non so se riuscirà a rientrare prima della fine della stagione NBA, però sicuramente per quanto riguarda gli impegni con la nazionale non c'è assolutamente problema. Non c'è problema, meno male. Ieri sera guardavo, dicevo prima, Kobe Bryant, la partita peraltro vinta contro Steph Curry, sono veramente contento che si ritiri, perché vedere il tramonto di giocatori così come sono stato felice di quando Michael Jordan ha giocato l'ultima partita con i Washington Wizards nell'ultima reincarnazione. È un peccato vedere, sto pensando anche a Totti, ma questa è un'altra storia, è un peccato vedere il tramonto di un giocatore quando non è più lui, meglio guardare un DVD. Sì, è brutto e sembra un po' triste. In realtà quando tu sei un giocatore cerchi di allungare sempre il più possibile, perché essere in campo è sempre qualcosa di particolare. Lui penso che abbia scelto anche il momento giusto, perché è riuscito a fare ancora un paio di partite da 28-30 punti, quindi... E poi con questo tour, diciamo, in giro per l'NBA con l'ultimo anno dichiarato all'inizio, per lui è sempre una grande festa ogni partita, perché in ogni campo dove i Lakers vanno a giocare si preparano feste per lui, insomma. Si fa così. Un'ultima cosa, Vittorio, invece da operatore del basket, Sassari è la dimostrazione di come si possa rovinare una storia meravigliosa e tante vittorie. Sacchetti via, Calvani via, adesso in panchina va il general manager Pasquini. Io credo che al di là di Sassari, insomma, sia stata una brutta figura per il basket, per chi lo guarda da fuori. So se sono duro, ma la penso così. Ma guarda, vincere è difficile, è difficilissimo. Restare ai livelli, a quei livelli, è ancora più difficile. Sassari sono stati bravi a costruire un gruppo, ad avere un ottimo allenatore. Nei momenti di difficoltà è difficile tenere duro e molte volte si rischia di prendere decisioni che sono impopolari e sbagliate. Purtroppo così è stato. Quando poi fai questo, cerchi di recuperare, ma tante volte invece di recuperare fai peggio. Secondo me Sassari è una bella realtà, e sarebbe un peccato perderla, sicuramente. Su questo non c'è dubbio. Vittorio, ti saluto con questo messaggio. Sì, bravo, bravo Danilo, ma il vero Gallo è Vittorio. Litigavo con mamma e papà per vedere la TV fino a tardi. Max da Trento. Ciao, lo ringrazio e mi permetto di essere d'accordo. Ciao Gallone, grazie. Ciao. Con Vittorio Gallinari chiudiamo oggi. Giorgio De Luca, nostro autore, Andrea Roccabella in regia, Federico Binda in redazione. A domani. È finita! È finita!